dice te che posse sol sarai di sì rara beltà, con fin di spoglie e mentite sembianze al grande acquisto in tuo soccorso un nome prevenne il tuo Let's go.